Che buon profumo che si sta spandendo per la casa. È una miscela speciale. È una miscela che il vecchio Chuck Berg ha miscelato per voi. Forza, alziamoci. È il vostro caffè. Ehi, benvenuti all'Early Bird Special. Shake it up, shake it up, shake it up! Aloha, benvenuti all'Early Bird Special, passerottine e passerottine care. Questa è la prima colazione che serviamo tutte le mattine, calda e fragrante, dalle frequenze di Rock FM. Io sono Chuck Bird, sì signori, quelle della grande musica, quello che racconta le sciocchezze sulla storia del rock and roll. Ragazzi, benvenuti ancora una volta, vi voglio portare mano nella mano nel cuore della Londra più misteriosa, insieme a Jerry Rafferty, Baker Street. Thank you. winding your way down a Baker Street, light in your head and dead on your feet. Well, another crazy day, you'll drink the night away and forget about everything. This city desert makes you feel so cold. It's got so many people, but it's got no soul. And it's taking you so long to find out you were wrong when you thought it held everything. You used to think that it was so easy. You used to say that it was so easy. But you're trying now. Another year and then you'll be happy. Just one more year and then you'll be happy. But you're crying now. Got this dream about buying some land. He's gonna give up the booze and the one night stands, and then he'll settle down in some quiet little town and forget about everything. But you know he'll always keep moving. You know he's never gonna stop moving, 'cause he's rolling, he's the rolling stone. When you wake up, it's a new morning. The sun is shining, it's a new morning. You're going home. potrei avere un sassofonista al mattino qui insieme, no, mi piace da impazzire. Sarebbe carino, mentre io parlo, racconto le mie stupidate, avere qui qualcuno che mi suona sottofondo. Non sarebbe male, sarebbe anche un modo piacevole anche per scambiare due parole. Non che mi manchi la compagnia, perché chiaramente Cherie è qui con me tutte le mattine con il caffè e naturalmente controlla la posta elettronica. Anzi, se volete spedirmi qualche messaggio, lo potete fare digitando sulla vostra tastiera bird@radiorockfm.com e io sarò felicissimo di raccontare le vostre storie di rock and roll qui in diretta tutte le mattine da Rock FM. Due grandi, due re del rock and roll, B.B. King e Eric Clapton, Riding with the King. You're riding with the king.

your soul, lost without a trace. It holds you down and turns you round and puts you in your place. Another day, another dollar, another pretty face. Another chance to lose yourself in the endless race. Triumph, l'Early Bird Special, Hold On. Ma era dei Rolling Stones che vi volevo parlare. I Rolling Stones, gli anni 60 passano per forza attraverso le loro canzoni, ma anche attraverso le loro gesta. Come la tragedia accaduta ad Altamont, in California, dove Meredith Hunter, un ragazzo di colore di soli 18 anni, venne accoltellato a morte da un componente del gruppo motociclistico Hells Angels, ironicamente incaricate di prestare il servizio d'ordine alla manifestazione. La vicenda sconvolse non solo il mondo del rock, ma tutto il mondo occidentale. Ci furono anche astrologi che vollero dare una spiegazione dell'accaduto. Sentite cosa scriveva uno di loro proprio ai Rolling Stones pochi giorni dopo l'accaduto. Per quelli che sanno, è stato evidente fin da Their Satanic Majestic Request che i Rolling Stones, o almeno alcuni di loro, praticano la magia. Ma in quell'album sembrava più bianca che nera, mentre in seguito la sua qualità si è fatta sempre più demoniaca. Ad Altamont, egli, il signore delle tenebre, è apparso in tutta la sua maestà con la sua orrenda corte di demoni. Mancavano pochi giorni al solstizio d'inverno quando le potenze delle tenebre imperversano sulla terra. La luna era nello scorpione, che è il periodo del mese in cui la vibrazione universale è più instabile. Poi Jagger si è presentato col buio, in modo che le luci rosse operino con la loro magia. Non so se si rendessero conto di quel che facevano. Siamo tutti colpevoli, perché tutti abbiamo bevuto il filtro che i Rolling Stones ci offrivano. Gli anni 60, un periodo dove anche gli astrologi si occupavano di rock and roll. Rolling Stones, Get Up on My Cloud, all'Early Bird Special, che in questo momento vede l'ingresso trionfale di una particolarmente elegante Cherie. Sai che mi fa impazzire quando è quel taglierino tutto bello bello sciancrato. Cherie in questo momento mi sta portando il mio caffè, il mio meritatissimo caffè, una tazza di caffè nero bollente per il vecchio Chuck Bird, tanta buona musica per voi, passerottini e passerottine care, sì, perché vi trattiamo veramente coi guanti di velluto, perché questo è l'Early Bird Special.